corpo senza sé. Nel fremito la notte scintilla, attendo l'abisso del silenzio madrido, nodo stretto in gola al mio riso. Nodo stretto in gola al mio riso.